Respiro. Buongiorno e benvenuti a Respiro, io sono Cristina Carpinelli. Questa settimana l'intera puntata è dedicata al biologico, con un taglio particolare però, perché parliamo di ristorazione collettiva bio, mense scolastiche, per uffici, per asili nido. Si sta creando questa offerta di mercato che sta cominciando ad avere un buon seguito. Vediamo allora i numeri, quanto costa e come funziona. Per farlo partiamo dal comune di Argelato, 9.460 abitanti, 125.000 pasti all'anno, 700 pasti al giorno. È stato questo comune tra i primi del bolognese a partire con il biologico e oggi in tutte le mense scolastiche c'è un menù bio al 100%. Prendiamo questa esperienza come esemplificativa. Nel 2003 il comune ha predisposto la base d'appalto per la mensa interamente biologica. È stato previsto un aumento del 50% di tutti i prezzi delle materie prime, aumento che ha significato un incremento del costo effettivo di ogni pasto limitato al 16%, quindi da 4,93 pasto convenzionale a 5,72 euro pasto biologico. Per gli utenti l'aumento è passato da 4,25 a 4,90 euro e poi il comune ha deciso di mantenere invariata la tariffa per i successivi 3 anni scolastici. Ovviamente questa è una storia da segnalare, da prendere come esempio, anche perché ci stanno lavorando in molti in Emilia-Romagna. Nella regione infatti è stata emanata una legge che addirittura impone cibi biologici privi di pesticidi e OGM al 100% negli asili nido per i bambini fino ai 3 anni. Abbiamo sentito chi si occupa di questo, è il signor Daniele Ara, che gestisce lo sportello mense collettive bio di tutta la regione Emilia-Romagna. C'è una legge nazionale che è prevista nella finanziaria del 2000, che è la 488, comunque finanziaria del 2000, e c'è una prima indicazione nazionale, poi 7-8 regioni hanno legiferato a seguito di questa legge nazionale e l'Emilia-Romagna ha fatto quella ritenuta un po' più avanzata. E quindi è una legge di orientamento per i comuni e gli ospedali per l'introduzione dei prodotti biologici e a marchio di qualità certificata. Quindi voi... E poi questa è un... sì, dica. No, dico, voi a questo punto come siete? Cioè qual è la situazione delle mense scolastiche o comunque del pubblico? Allora, intanto chi siamo noi? Noi siamo, gestiamo per conto della regione uno sportello informativo, quindi noi non siamo la regione, noi siamo l'Associazione dei produttori biologici dell'Emilia-Romagna, che raccoglie tutto il mondo del biologico dell'Emilia-Romagna, che gestisce per conto della regione uno sportello informativo per i comuni per applicare la legge. E a che punto è la legge? Allora, progressivamente tutti i comuni sanno che devono applicarla, anche se è una legge che non prevede sanzioni e non prevede incentivi, cioè dà delle indicazioni, una legge un po' più d'accompagnamento. E a che punto siamo? Che ovviamente è una situazione a macchia di leopardo, ci sono comuni virtuosi, circa il 20%, che mettono quasi tutto il bio possibile, poi c'è una fascia mediana di un 40% dei comuni che mette una decina di referenze, quelle più economiche, e poi gli altri comuni che hanno poco o niente bio. Capito? Perché secondo lei quali sono le resistenze che vengono portate? Ma allora, a volte c'è proprio un problema di sottovalutazione, insomma, dell'importanza di questa cosa, insomma, non rientra tra le priorità, anche se c'è una legge che non prevede multe, ma la legge c'è. E poi ci sono invece alcuni problemi oggettivi, a volte di costi, nel senso che se uno non fa una riorganizzazione efficiente del modello di mensa e pensa di sostituire unicamente il prodotto convenzionale col prodotto biologico, non ci sta dentro quei costi. Introdurre il biologico significa ragionare anche sulla riorganizzazione dei menu, trovare delle economie in tutto il, diciamo, in tutta la gestione, e poi investire maggiormente sulla materia prima. Questo è uno dei problemi principali. Poi ci può essere, nel caso dell'ortofrutta, alcuni momenti in cui c'è anche una scarsità di prodotto, ma questo era vero più anni fa, adesso ormai il prodotto biologico si trova senza problemi. Costa un po' di più e per alcune amministrazioni è un costo insopportabile, per altri meno, insomma. Quant'è la diversità? Cioè, se si può fare, voi l'avrete sicuramente calcolato, quanto costa in più un... Allora, lì dipende intanto da... distinguiamo prodotti ad alto valore aggiunto tipo latticini e carni, che arriviamo al 30-35% di differenza. Sulle altre referenze ormai siamo sul 20-25%, insomma non parliamo di cose enormi, però quel 20-25% non si applica sul tutto il costo pasto, è un 20-25% in più di un 30% che è la quota di materia prima all'interno del costo pasto. Purtroppo il mercato alimentare è talmente impazzito che non è detto che un prodotto che arrivi vicino costi di meno, questo purtroppo non è automatico, nel senso che se una piccola azienda locale vuole servire un comune, a volte può essere più costosa di una grande piattaforma distributiva che prende il prodotto in tutto il mondo. Sì, però perché, dico, a livello ambientale l'impatto è sicuramente minore, per cui forse bisognerebbe calcolare anche quello. Assolutamente, no, ma infatti quello che diciamo noi è che comunque l'aumento di costi, che comunque è di un, alla fine parliamo di un 10-15% su tutto il costo pasto, cioè prima, il 20-30% che dicevo prima era solo sulla materia prima, se vado a considerare tutto il costo pasto parliamo di un 10-15%. È chiaro che nella corretta, cioè in questo processo virtuoso bisogna mettere anche le esternalità positive. Quindi è il comune che potrebbe eventualmente vantarsi di avere... Esatto, se poi riesce anche a costruire, e questo è anche un po' il compito nostro, delle filiere locali, cioè a seguito di un impegno dell'amministrazione a acquisire un prodotto di un certo tipo, si mette poi in moto un'economia locale, se si indirizza bene. Cioè è una classica politica di acquisti verdi che può indirizzare anche lo sviluppo locale dal punto di vista ambientale ed economico. Nel 2006 le mense bio in Italia erano 658 per un totale di 896.000 pasti giornalieri. Le regioni che vantano il maggior numero di mense bio sono l'Emilia Romagna con 127, la Lombardia con 111, la Toscana con 80, il Veneto con 72 e il Friuli Venezia Giulia con 68 mense biologiche. Altra nota dolente però di cui parliamo quando parliamo di mense, soprattutto appunto quando parliamo di grandi numeri, è la quantità di rifiuti provenienti da PET e da lattine. In questo settore si producono per esempio per 700.000 pasti annui circa 25.000 tonnellate di rifiuti di plastica e seppur con un consumo più contenuto rispetto a quello di acqua, alcune migliaia di tonnellate di lattine. Alcuni studi hanno quantificato in 45 kg l'anno la quantità di rifiuti per ciascun utente di mensa collettiva. Di questi la maggior parte derivano dall'uso di contenitori per i liquidi alimentari e di stoviglie monouso, oltre che dalla mancata somministrazione o dal mancato consumo di cibo. Il consumo di acqua e bevande confezionate nella ristorazione per le grandi comunità dunque causa questo impatto, ma anche c'è da segnalare il trasporto di oltre 1 milione di tonnellate di prodotti con una percorrenza variabile a seconda della distanza dal punto di produzione e stoccaggio al punto di consumo di circa 250 chilometri medi. Per questo abbiamo intervistato Giovanni Varoli, che è uno dei fondatori della General Beverage, che è un'azienda toscana che lavora proprio su questo fronte. Si pone al mercato con l'obiettivo di eliminare il problema degli imballaggi, quindi l'impatto ambientale degli imballaggi, delle bevande nella situazione collettiva. In particolare appunto nasce nell'ambito del settore delle grandi mense militari e aziendali, perché è un settore nel quale appunto la produzione di imballaggi, di bottiglie d'acqua e di lattine è enorme e anche dei risvolti di impatto, diciamo, logistico, di problematicità logistica che poi nel tempo hanno portato le aziende a sostituire appunto le bottiglie con questo nostro sistema. Sistema praticamente, se posso descriverlo ora, se no lo descrivo dopo. Sì, no, me lo descrivo. Praticamente si tratta di installare delle macchine delle isole, diciamo, che distribuiscono a consumo libero l'acqua microfiltrata, le bevande, i succhi di frutta o le bibite, le bevande naturali, altre tipologie di bevande, tra cui quelle ecosolidali, quindi queste isole distribuiscono queste bevande a consumo libero all'interno della sala, a differenza della bottiglia che invece veniva prelevata prima della cassa, insomma. Quindi in questo modo l'utente entra in sala all'interno del pasto, ha questo benefit compreso nel costo pasto. Di accedere all'isola senza una limitazione, quindi può prendere un bicchiere, due bicchieri, sostituendo in questo modo in maniera integrale la bevanda o la bottiglia confezionata. Quindi è chiaro che l'appeal di questa cosa è superiore e quindi anche commercialmente non si percepisce un qualcosa di pauperistico rispetto al togliere la bottiglia d'acqua e sostituirla ad esempio con l'acqua del rubinetto, insomma. E quindi diciamo, porta gli utenti a essere soddisfatti o contenti di questa sostituzione. Viceversa, le aziende di ristorazione che noi poi forniamo non ci riconoscono un tanto a secondo dei consumi, ma un quid fisso per ogni pasto. In questo modo hanno un controllo, una tranquillità sul fatto che il rischio di impresa di un consumo eccessivo di bibite o di succhi non è a carico loro, ma è a carico nostro. Ecco, quanto si risparmia in termini di bottiglie o di packaging in generale? Avete fatto un calcolo? Sì, noi diciamo che attualmente stiamo facendo questo sistema in circa 60 milioni di pasti annui, e questo comporta oltre 2.000 tonnellate di rifiuti, di prevenzione di rifiuti, spalmate diciamo soprattutto PET, perché poi il consumo maggiore era in questi 60 milioni di pasti di bottiglie di PET, ma anche di alluminio e di altre sostanze, cioè, tra cui la plastica termoretraibile per impattare i pancali, cioè, quindi circa 2.000 tonnellate, con oltre 2.000 tonnellate di rifiuti. E poi sul trasporto, che è significativo, sono oltre 80.000 tonnellate, perché ovviamente l'impatto ambientale dell'acqua confezionata e delle bevande confezionate è anche e soprattutto il trasporto, insomma, che è spaventoso, perché magari la stessa acqua che viene imbottigliata a una fonte poi va a un altro magazzino e torna magari nella stessa zona dopo aver girato inutilmente per centinaia di chilometri, insomma. Voi dove siete operativi maggiormente? In quali regioni? Siamo operativi bene a livello nazionale e in tutte le regioni, perché i gruppi che forniamo sono poi gruppi di portata internazionale addirittura, quindi sicuramente in Italia sono presenti dal Trentino alla Sicilia, insomma non è che ci sia una limitazione di coperture di zone. Dobbiamo garantire tutto con l'assistenza, perché poi in questi casi l'elemento discriminante per poter sostituire anche le bottiglie è poter garantire con questi sistemi comunque anche le caratteristiche igienico-sanitarie necessarie, quindi il rispetto delle normative sulla depurazione, il rispetto dei controlli, la documentazione. Quindi in questo senso abbiamo in ogni regione un centro di assistenza diretto che ci permette di garantire queste caratteristiche, insomma. Senta, per quanto riguarda il mercato che voi in qualche modo avete, se non aperto, comunque sul quale voi siete operativi, sì. Avete ricevuto delle pressioni nel corso degli anni, magari proprio all'inizio? Ma diciamo che nel settore delle acque, come può immaginare, non è che sia stato così facile superare delle resistenze. Ora, ce ne sono alcune resistenze prevedibili, sono resistenze di mercato, di percezione, cioè per dire la resistenza del mercato stesso, degli utenti, che magari per motivi anche preventivi, come dire, di pregiudizio, si sono abituate per decenni all'acqua in bottiglia. Diciamo, è superabile al momento in cui si affronta la problematica concretamente sul campo, no? Poi c'è una percezione positiva del consumo libero, per cui quella si supera. Quello che è più difficile da superare ovviamente sono le iniziative meno esplicite. Ora non voglio entrare nei dettagli, però diciamo che in generale la normativa sull'acqua, sulle bevande, diciamo che ha favorito sicuramente in questi anni le acque minerali imbottigliate, cioè per motivi abbastanza palesi. Adesso, ripeto, è difficile entrare nel dettaglio e sarebbe anche un po', come dire, problematico per me, però in generale posso dire che i controlli sulle acque microfiltrate, posto che ci sono anche molti che le fanno male queste cose, e quindi questo riconosco che non è che sia un mercato anche quello dell'acqua microfiltrata omogeneo, no? C'è anche chi mette le macchine e poi non le controlla, non mette i registri, ma a parità diciamo di qualità dell'azienda che la gestisce, diciamo i controlli sull'acqua microfiltrata sono molto più stringenti, molto severi, addirittura direi ossessivi, rispetto che sono, cosa ne so, per esempio al controllo sulle macchine di bibite nei bar, che dovrebbero avere gli stessi obblighi normativi. Quindi questo mi fa pensare che ci sia comunque sicuramente a livello generale una dire, pressione, magari anche inconscia, magari anche trasversale, che non è che sia come dire organizzata, no? Quindi in questo senso sicuramente sostituire nel tempo le bottiglie d'acqua o le bevande confezionate, che è un obiettivo che al di là della ristrutturazione collettiva potrebbe portare dei benefici enormi dal punto di vista dei rifiuti in tutti i settori, è una cosa che incontra delle resistenze grosse, insomma, importanti. Respiro termina qui, la puntata potete sentirla sempre andando all'interno della pagina di Radio 24 e cercando poi la nostra, quella di Respiro. Potete scriverci all'indirizzo respiro@radio24.it. Da domenica prossima alle 14 ci sarà Laura Bettini in conduzione della trasmissione. Io mi fermo qui, è stata un'avventura meravigliosa, vi ringrazio, ringrazio tutti quanti voi per i messaggi che mi avete inviato nel corso di questo anno. Buona giornata, buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli.